GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. In apertura una rissa avvenuta a metà mattinata nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste. Una persona avrebbe riportato ferite da taglio, causate forse dal vetro di una bottiglia, ma non è in gravi condizioni. Avrebbe cercato di ripararsi all'interno della stazione, dove poi è stata soccorsa. Sul luogo sono giunti i sanitari del 118, ma anche i carabinieri, gli agenti della polizia ferroviaria. Alcuni stranieri sarebbero stati fermati e identificati. Il ferito è di nazionalità afghana. Ed è stata riaperta intorno a mezzogiorno l'autostrada A23 nel tratto compreso tra Gemone e Udine Nord in direzione Palmanova, dopo la chiusura avvenuta poco dopo le 10 a causa di un incidente che ha coinvolto due moto e un camper. Ancora non nota la dinamica del fatto né se ci siano stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza dell'area. A causa dell'interruzione al traffico si è formata in autostrada una coda di circa 9 chilometri. Rubano mele, ma questa volta non si tratta di un danno da poco. I ladri hanno infatti portato via dall'azienda agraria dell'Università di Udine il risultato di ben 15 anni di ricerche e di miglioramenti. Indagano i carabinieri e si pensa a un furto su commissione. Furto dai contorni tutto da chiarire ai danni dell'azienda agraria Servadei dell'Università di Udine. Nella notte tra venerdì e sabato ignoti, tagliando la rete di recinzione, si sono introdotti con un mezzo facendo razzia di mele in tre filari. Non è la prima volta che l'azienda subisce delle intrusioni, ma questa volta il danno è maggiore, perché ad essere prese di mira sono stati tre filari di meleti frutto di una sperimentazione iniziata nel 2008 per arrivare a selezionare 75 specie di mele resistenti alle principali malattie. Raffaele Testolin, Università di Udine. Sono 15 anni di lavoro, quest'anno era l'ultimo anno in cui facevamo i rilievi e poi avremmo deciso se metterne qualcuna sul mercato, quindi un anno di ritardo sicuramente. E poi la delusione di vedere questa, come dire, scarsa sensibilità per le aziende sperimentali. Un furto inspiegabile, anche perché alcuni quintali di mele sottratte hanno un valore economico molto basso, ma un grave danno per il lavoro svolto dai ricercatori universitari. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo al devastante terremoto che venerdì sera ha colpito il Marocco. Sono 400 gli italiani presenti al momento nel paese nordafricano. Si tratta soprattutto di turisti, fra i quali un gruppo di friulani in viaggio premio. Sconvolta dalla tragedia anche la folta comunità marocchina presente in Italia. Ci ha raggiunto in studio per un aggiornamento Antonio Di Bartolomeo. Sono oltre 4.000 i marocchini in Friuli Venezia Giulia, la sesta comunità nazionale più numerosa, senza contare coloro i quali hanno origine nel paese magrebino e hanno acquisito la cittadinanza italiana. Sono ore di tristezza e apprensione per loro che in Africa hanno lasciato ricordi e legami familiari e di amicizia. 10 mesi fa l'orgoglio di una semifinale al mondiale di calcio storica, oggi il dolore, un dolore che Tariq El Hamri, barbiere a Trieste da anni, oggi deve mettere da parte perché bisogna lavorare. Lui è di Agadir, non lontanissimo ma nemmeno particolarmente vicino all'epicentro. I suoi per fortuna stanno bene, la casa non è danneggiata. Le zone più colpite, quelle montane a ovest, sud-ovest rispetto a Marrakech, Tariq le ha visitate un mese fa, sono zone molto povere. Il suo pensiero va proprio a quelle popolazioni lì, è proprio lì che arrivano la maggior parte dei morti e delle vittime, che purtroppo un bilancio che purtroppo continua ad aggiornarsi in peggio di ora in ora. Stanno tornando invece con un volo di linea i circa 30-40 rappresentanti di un'azienda tedesca che vende prodotti per la casa, che si trovavano in Marocco per un viaggio di lavoro, con 1.800 persone provenienti da tutto il mondo, centinaia dall'Italia. L'altro ieri sera la grande paura del terremoto, hanno dormito praticamente al lato della piscina venerdì notte, ma tutto è tornato alla relativa normalità per quanto riguarda buona parte di Marrakech, se si esclude alcune zone della Medina che sono più colpite, che sono crollate. Così loro sono potuti rientrare, stanno rientrando con il volo di linea che era previsto per le 13 ore italiane. Dunque si è conclusa positivamente questa vicenda. Grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Noi proseguiamo con la situazione meteorologica. Il cielo è sereno sul Friuli Venezia Giulia. Ecco le temperature registrate alle 11. A Trieste 27,5 gradi. Il mare è poco mosso, a una temperatura di 24,5 gradi. A Pordenone 28, a Udine e a Gorizia 27,5, a Tolmezzo 22,5, a Forni di sopra 22, Piancavallo 19,5, Tarvisio 18 gradi, Sappada 17. Sullo Zoncolan 18,5, sull'Ussari 16, a Grado 27,5, a Lignano 24 e nelle due località la temperatura del mare è di 24,5 gradi. Le previsioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo sereno con temperature massime in pianura decisamente alte per la stagione, anche in quota temperature ben oltre la norma del periodo, 20. A regime di brezza per domani cielo sereno in pianura, nel pomeriggio farà caldo per la stagione, anche in quota temperature ben oltre la norma del periodo, 20 a regime di brezza. Un'occasione per entrare in contatto con un pezzo fondamentale del nostro patrimonio culturale è la Giornata Europea della Cultura Ebraica. Fra Trieste e Gorizia sono stati programmati diversi appuntamenti. Nel capoluogo del Friuli orientale stasera è in programma la quarta rassegna del cinema ebraico a cura dell'Associazione Amici di Israele, con la proiezione di Walzer con Bashir al Giardino Faber della Sinagoga alle 20:45. Su quanto avviene a Trieste, il prossimo servizio. La visita comincia tra le maestose tombe ottocentesche del cimitero ebraico di Via della Pace a Trieste. Tra una fitta vegetazione riposano i membri delle famiglie che hanno fatto la storia della città, dai Morpurgo agli Stock. Si prosegue poi alla sinagoga, dove centinaia di visitatori, turisti e triestini ammirano le volte dell'edificio sacro ebraico, inaugurato nel 1912, uno dei più grandi in Europa insieme a quello di Budapest. Alla bellezza dell'architettura e non solo è dedicata questa 24esima giornata europea della cultura ebraica. Davide Belleli, vicepresidente della comunità ebraica di Trieste. Dal punto di vista religioso possiamo pensare banalmente anche alla bellezza dei canti, ad esempio, ecco, piuttosto che all'arte nella decorazione delle sinagoghe, banalmente, tutto quello che si vede intorno. Tra i visitatori incontriamo anche la famiglia Berger, che da tutto il mondo è tornata a Trieste per ricordare le sue origini, che datano la fine del 1700, quando il capostipite Moise Maurizio Berger sposò Estelle Diamante Gallico. Nacquero 11 figli e una lunga stirpe che ora vive in diversi continenti, ma non dimentica mai Trieste. Nella città la presenza ebraica si data al 1200 e ha raggiunto il suo culmine all'inizio del 1900. Ora conta 500 iscritti ed è tra le prime 5 comunità più numerose d'Italia, una delle poche a mantenere una scuola e a ruotare attorno anche a un museo, quello di Carlo e Vera Wagner, che nel pomeriggio aprirà le porte ai visitatori. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport con il calcio in Serie C, Triestina in campo oggi pomeriggio a Zanica in provincia di Bergamo contro l'Albino Leffe. Fischio d'inizio alle 18:30 con l'obiettivo di mettere una pietra sul pessimo esordio contro Trento. Uno sguardo alla domenica di Friuli Doc, nel pomeriggio spazio al friulano con gli youtuber di YouPalTubo e la TikToker Greta Fabbro, diventata famosa per raccontare il friulano sui social. L'evento organizzato dall'Arlef si terrà nello stand aperitivo Io sono Friuli Venezia Giulia in piazza Primo Maggio alle 16. In chiusura sono in programma tre spettacoli, tutti in piazza Libertà. Alle 18 il cabaret, poi musica funk pop alle 19 e per chiudere alle 21 il concerto di Leo Gassman. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti odierni. Il pianista e compositore friulano Sebastiano Di Bin si esibirà stasera nel concerto Saluto al Doge, Arie Eterne, evento che chiude la manifestazione nel Giardino del Doge. In programma brani di musica classica e trascrizioni di canzoni celebri con composizioni originali a Villa Manin di Passariano con inizio alle 18:30. Pianoforte a quattro mani a Maiano, a esibirsi i pianisti Franca Bertoli e Ugo Cividino. L'appuntamento alle 18 in via Mazzini a Maiano, un'ora prima alle 17 la presentazione dei nuovi corsi della Scuola Normale di Musica. A Trieste l'orchestra di fiati Arcobaleno presenta il concerto Woman, dedicato alla figura femminile. Sul palco si esibiranno le pianiste Carmen Anastasio e Carolina Perez Tedesco, che suoneranno brani di Adinsel e Gershwin. A seguire le voci soliste di Maddalena Murano e Daniele Tripaldi. Nel corso della serata non mancheranno interventi per sensibilizzare sul problema della violenza contro le donne. Appuntamento al Giardino Pubblico Muzio di Tomasini alle 20.30. A Marano Lagunare appuntamento con l'Angelo Commisso Trio, che chiude la manifestazione Arte tra le Calli presentando l'album Numen, brani originali inframmezzati da omaggi a grandi maestri, alle 19 in Pescaria Veccia. Per la rassegna Vicino Lontano Monta, appuntamento a Cave del Predil per un concerto all'interno di una ex miniera. Il cantautore tarvisiano Michi Martina, che è anche tecnico del soccorso alpino, si esibirà nelle profondità del Monte Re con chitarra e armonica. Inizio alle 17. Si consiglia un abbigliamento pesante e calzature adeguate, perché in miniera la temperatura è compresa tra i 6 e i 9 gradi e l'umidità è elevata. E per Alto Livenza Festival, itinerario turistico musicale a Polcenigo con visite e concerti alla Chiesa di San Rocco e al Teatro Comunale alle 17. A seguire la commedia madrigalesca La pazzia senile di Adriano Banchieri a cura della Cappella Altoliventina alle 18.30 nel chiostro di San Giacomo. Per parlare del Pordenone, il celebre pittore friulano del Rinascimento, la rassegna Il Pordenone Arte e Musica propone oggi l'inizio di un ciclo di 3 appuntamenti con Omaggio al Pordenone, Pictor et Musico con Matteo Venturini all'organo, intervento storico-artistico di Federico Lovison. Appuntamento a Varmo, nella chiesa di San Lorenzo, alle 17. Parte la mostra Mondi Possibili, 2 secoli d'arte dalle collezioni di Pordenone, che mette in luce il patrimonio artistico del territorio pordenonese. Comprende quasi 140 opere di pittura, scultura e disegno realizzate fra fine dell'Ottocento e Novecento, esposte in 3 sedi della città: la Galleria Henri Bertoia, la Casa dello Studente, il Museo Diocesano d'Arte Sacra. 8 sono i percorsi proposti. La mostra resterà aperta fino al 28 gennaio. Ora sono le 12:27, l'assistenza tecnica è stata curata da Giuliano Pecorari e da Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Per il momento dunque è tutto, la nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio oggi col GR delle 18.30 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Maria Spezia e da Antonio Cajazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.